Per quest'ultima puntata del nostro programma volevo presentarmi e uscire allo scoperto. Mi chiamo Francesco Rigoni e sono studente di antropologia culturale presso l'Università di Torino. Ho partecipato alle attività di 110 Web Radio nell'ambito di un tirocinio curriculare, per il quale ricevo 10 crediti formativi utili per portare a conclusione il mio percorso accademico. Nel frattempo sto scrivendo la mia tesi finale in indologia, mi diletto nella scrittura radiofonica in altri contesti e nella passione per la musica. Questo programma è il figlio della necessità di lavorare a una trasmissione che mettesse d'accordo il mio ambito di studi con la passione per la radio. Nato fortunosamente dall'incontro con un libro molto particolare, edito da Unicef ormai fuori commercio, intitolato Giochi dal mondo, regalatomi da mio nonno all'età di 10 anni e sbucato fuori dalla libreria proprio nel momento del bisogno. Parlare di giochi non ha rappresentato solo la scusa per presentare alcuni dei concetti antropologici più concreti ed attuali in un linguaggio semplice e colloquiale, utilizzando il gioco come laboratorio nel quale sperimentare e confrontarsi, ma anche per lanciare un messaggio alla disciplina stessa, e cioè quello di non dimenticare il nostro mondo, tra virgolette. E cioè tutte le ramificazioni e le sfaccettature che la nostra società ha prodotto. Nonostante sia vero che in antropologia è una necessità di metodo quella di partire per visitare e conoscere mondi lontani, anche per tarare, per così dire, la capacità di giudizio nei confronti delle realtà da cui proveniamo, tuttavia è anche vero che spesso il cosiddetto ritorno al termine del viaggio fatica a verificarsi. Intrappolati in questi mondi così diversi e affascinanti, dimentichiamo di rivolgere uno sguardo più attento e acuto al nostro. Dall'altro versante, quello radiofonico, il gusto di trasformare la forma della puntata. Prima tante voci, poi soltanto una, interviste telefoniche, in studio, una scappata anche in Piazza San Carlo, sempre alla ricerca di un ritmo e di un linguaggio che fosse il più leggero e immediato possibile. Questa è la nostra ultima puntata, una puntata a tributo di un'esperienza durata quasi 6 mesi e che mi ha introdotto in un mondo grande e affascinante, nella quale si avrà modo di riascoltare alcune delle voci che hanno arricchito e dato un senso al nostro lavoro. Radio 110 presenta Bim Bum Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Benvenuti alla 19ª e ultima puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Come avete sentito dall'introduzione, questa puntata è una puntata speciale, un grande collage nel quale riproporremo alcune delle voci che abbiamo incontrato nel nostro viaggio, l'ultimo piccolo esperimento di radio che vogliamo tentare prima di accomiatarci dagli ascoltatori di 110 Web Radio, la radio dell'Università di Torino. Per non perdere tempo, ascoltiamo subito la voce di Andrea Ligabue, uno degli organizzatori della fiera Play Modena che ha avuto luogo il 26 e il 27 marzo di quest'anno, che ci dà una risposta interessante alla domanda: quale spazio hanno le altre culture e i giochi delle altre culture in una fiera come Play? Una risposta che in qualche modo critica una tendenza tutta antropologica, per fortuna in via di estinzione, a concentrare l'attenzione su culture certe volte percepite come distanti ed esotiche e a dimenticare tutti gli incroci e le connessioni che si possono realizzare anche nel nostro mondo occidentale. In seguito un altro spezzone di Nino Vessella, giocatore e promotore del gioco del mancala africano, sullo stesso argomento ma da un altro punto di vista. Ti rigiro la cosa e ti dico: se tu guardi come percorso culturale di riprendere quello che era i giochi del passato, diciamo c'è una diffusione ma non così tanta e così forte, però il mercato del gioco adesso è davvero internazionale, cioè per dire uno dei giochi che ha fatto successo quest'anno è un gioco fatto da un portoghese pubblicato da un italiano, autori italiani vengono pubblicati in America e in Germania, ci sono giochi che vengono dalla Cina, dall'Australia, cioè quindi è chiaramente un autore quando scrive un prodotto si porta dietro la sua cultura, quindi gli autori francesi hanno un loro stile, gli autori americani tendono ad avere un loro stile, gli autori tedeschi tendono ad avere un loro stile, gli italiani un loro stile, quindi diciamo, se tu mi dici la fiera e il gioco moderno è interculturale, ti dico di sì, perché il mercato del gioco sta diventando davvero interculturale, per dire, negli ultimi 2 o 3 anni ad esempio hanno avuto molto successo tutta una serie di movimenti di giocatori e quindi di case editrici e autori dell'est, Cecoslovacchia, Polonia, che fino a qualche anno fa non c'erano, e quindi in questo senso qua il gioco moderno è davvero internazionale, sì. E ogni autore, ogni casa editrice ovviamente porta dentro quella che è la sua cultura, sì, e la sua esperienza. Se invece tu mi dici c'è una ricerca di un percorso che va a ripercorrere quali sono i giochi tradizionali, non è, diciamo, non è così evidente. Bim, bum, bale, giù! Ma io chiuderei con questa domanda qui, che riguarda più, diciamo così, l'Italia, ma l'Italia delle persone che non sono italiane. Nel senso, viene giocato questo gioco? Io penso a Torino, non so, non mi stupirei trovare della gente che gioca a un Mancala in Porta Palazzo, diciamo. E non li ho mai visti, però. E le volevo chiedere se lei invece sa se queste cose succedono, no. O se c'è incontro per questo tipo. Purtroppo no. No? No. A per Torino, gli stessi problemi della Tanzania? Ma non so perché, intanto perché vabbè è ancora poco noto, sì. In Italia è più facile trovare giocatori di Auele, in Mancala 2x6, sì. Quello è più diffuso, sì. Però certo insomma non si trovano in piazza oppure addirittura la cosa più strana, almeno più strana, anche qui dipende dal fatto che insomma quest'anno ho bisogno di lavorare, sì. Gli immigrati in Italia, sì. Gli immigrati dall'Africa, è difficile coinvolgere. Per esempio io sono in contatto con un'associazione di tanzaniani che immigrati in Italia, non sono mai riuscito a coinvolgere in un torneo oppure in un incontro di Bao. E questo è molto strano. Perché pure loro hanno problemi, diciamo, economici, sì, a cui pensare. Hanno altre cose più importanti a cui pensare, sì. O più urgenti, insomma. Bim bum bale giù! Bim bum bale giù, 19esima e ultima puntata su 110 Web Radio. Avete sentito la voce di Nino Vessella, che integra il discorso di Andrea Ligabue e introduce un problema rimasto aperto durante le nostre puntate. Esiste un'emancipazione nel gioco? A che livello? Che ruolo può svolgere il gioco nell'annosa questione dell'immigrazione, così attuale in Italia? Lasciamo la questione in sospeso e passiamo a un'altra testimonianza, quella di Renata Bronzino, responsabile del gruppo Gioco Ospedale presso l'ospedale Regina Margherita di Torino, raccolta durante la giornata mondiale del gioco, il 26 maggio, in piazza San Carlo. A seguire le parole di Maria Carla Rizzolo, responsabile del nucleo pedagogico presso i centri per la cultura ludica di Torino. Come gruppo Gioco Ospedale è proprio un'attività che è rivolta ai bambini ospedalizzati, quindi la possibilità di continuare a giocare anche in un ambiente, in un contesto dove naturalmente è sottolineato la passività e la malattia. Sì. Mentre invece quello che noi andiamo a stimolare è proprio un po' la risorsa positiva del, sì, gioco, in modo da dare libera fantasia e una possibilità di riprendersi, sì, in un modo positivo. Il gioco simbolico è molto usato, in questo caso abbiamo delle cullette con dei bambolotti che vengono curati dai, sì, bimbi, e i bimbi, proprio perché è un gioco simbolico, indossano dei piccoli camici che sono i camici, sì, del dottore, e simulano, grazie a un materiale naturalmente gioco come il fonendo, le siringhine, sì, che sono gioco, la cura al bambolotto. Sì. A fianco a questi giochi, che sono appunto giochi simbolici, dove i bambini si mettono, sì, si mettono nei panni, ci sono alcune presentazioni dei progetti che seguiamo come gruppo Gioco Ospedale. Sì. Uno è l'accompagnamento alla sala operatoria, sì, di cui si può vedere il libro gigante 1,70 m, che fa parte di un progetto di accompagnamento, sì, alla sala operatoria, perché si spiega al bambino quello che deve sapere ed è bene che sappia per poter affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione per l'intervento chirurgico nel miglior modo possibile. Sì. Viene fatto l'intervento, la preparazione all'intervento sia a Regina Margherita sia al Martini, sì, e si utilizzano questi pupazzi, che sono pupazzi a guanto, ah, sì, che sono o Martino e Martina, quelli che lavorano al Martini, o Tamino e Stella, che invece sono le mascotte. Stavo Regina. No, ma Tamino e Stella, che sono invece al Regina Margherita. Sul tavolo abbiamo anche il libro di accompagnamento. Sala, sì, questo libro che alternando disegni e fotografie, sì, dà una sequenza di quello che è l'accoglienza del bambino al momento dell'entrata in ospedale fino ai protocolli che si devono seguire prima di andare in sala operatoria.

adulti di oggi si perdano. Devo dire che non tutti, per fortuna, ce ne sono molti che riescono ancora a provare questa dimensione di gioco e quindi provare piacere e non necessariamente avere questa pressione dal punto di vista sia organizzativo che di costi, che invece per altri diventa importante. Bim bum bale giù! Abbiamo voluto riproporvi queste due esperienze per toccare un altro aspetto inerente all'attività ludica importante, e cioè il rapporto con gli adulti e il valore che gli adulti attribuiscono al gioco, un argomento molto interessante con il quale ci siamo confrontati, anche a microfoni spenti, durante la realizzazione del programma. Adesso ascoltiamo altre voci, quella di Valentina Basso, che ci parla del suo progetto PLA rispetto alla creatività del bambino nel gioco, e quella del professor Vagliani e della dottoressa Pasino, che ci raccontano della creatività del bambino anche nella conta. Nel nostro gioco la possibilità di essere manipolato si realizza nel modo più semplice possibile. Cioè, noi cerchiamo di dare meno vincoli possibili, ma solo dei suggerimenti di gioco. Le regole, gli schemi di gioco che ho detto si concretizzano nella nostra piazza, nel nostro spazio gioco, sono proprio solo dei suggerimenti, possono anche essere letti dal bambino solo come dei disegni astratti, oppure possono diventare appunto degli aiuti nella giocabilità dei giochi. Però appunto tutte queste linee, questi spazi possono essere interpretati come si vuole. Uno degli aspetti del nostro progetto era quello di la possibilità di dare dei cartelloni illustrativi per spiegare ai bambini come poter giocare questi giochi, però ovviamente tutte queste regole non sono vincolanti, anche perché questo gioco non può che essere giocato dagli utenti come vogliono loro. Questa cosa secondo noi è molto importante proprio perché questo spazio vuole essere uno spazio di confronto, nel momento in cui vengono a contatto bambini con esigenze molto differenti. Pensiamo per esempio a un bambino normodotato e a un bambino con una disabilità mentale o fisica come la cecità o la mancanza di possibilità di correre in autonomia. La possibilità di modificare le regole del gioco è fondamentale, perché in questo modo i bambini possono venirsi incontro e creare delle regole che permettano al gioco di essere giocato realmente e attivamente da tutti gli utenti, perché da quelle poche cose che abbiamo potuto imparare dal gioco o comunque anche dalle nostre ipotesi, pensiamo che in ogni caso giocare insieme anche con un bambino diverso tra virgolette sia molto meglio che non giocare da soli, soprattutto in una fascia di età che va dai 6 anni in su. E quindi appunto questa è stata la nostra linea guida e il nostro modo di interpretare la plasticità delle regole. Io ripartirei proprio con una conta che è di tutti, non è solo delle nostre parti, ma direi che in tutta Italia si trova, ed è Ambaraba Cicicocò. Sì, ce la ricordiamo, Ambaraba Cicicocò, 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore s'ammalò, poi ha delle varianti, può essere anche ma la mamma la chiamò, il dottore le sgridò, eccetera, e chiude Ambaraba Cicicocò. Ecco, questa è forse la più diffusa in assoluto delle conte italiane. Qualcuno la considera non sensica, secondo altri invece c'è un senso riposto, c'è anche una avremo spiegazione, tempo poi per... magari ne parleremo, tutti comunque concordano nel definirla una conta. La conta, tu forse l'hai già anticipato, è questa formuletta che introduce il gioco, quando i bambini si organizzano per giocare, per stabilire chi sta sotto, chi va fuori, trovano un accordo attraverso la recitazione di questa conta che designa alla sorte la scelta, alla sorte ma anche un po' a questo potere oracolare della parola. Tradizione vuole che i bambini si dispongano in cerchio, in semicerchio o meglio ancora in cerchio se sono parecchi, e che uno di loro cominci a recitare sillabando, toccando i compagni che sono davanti a lui. L'ultima sillaba cade su quello che o sta fuori o sta sotto, sì, a seconda della situazione. E qui dicevamo comincia il gioco, che può essere nascondino, le belle statuine, rialzo. Tutti questi giochi hanno un preliminare che è appunto un sorteggio e una conta di sorteggio. E qui noi ci dicevamo sì, per i bambini comincia il gioco, ma per la critica invece cominciano i rovelli perché proprio la disposizione in cerchio, i versetti non sensici, la ripetizione l'attenzione, il toccare il compagno. La formula ha naturalmente scatenato l'interesse, intrigato degli specialisti, ma di tutte le discipline. Sì. C'è da dire forse anche che oltre a scegliere dentro o fuori, no, c'è anche la scelta del capogruppo, capogioco. Certo, cioè, quindi capogioco. C'è anche una formula di identificazione del capo, quindi a maggior ragione una valenza. Poi rapportata a questo aspetto oracolare, profetico di cui abbiamo parlato, abbinato alla sorte, che è un po'... Abbinato alla sorte, abbinato al cerchio magico. Sì, sicuramente non può. Quindi allora subito gli antropologi hanno drizzato le orecchie, ma non solo loro naturalmente, gli storici, i linguisti, gli etnolinguisti, gli etnomusicologi, gli etnopedagogisti, quindi insomma c'è una serie. L'etnomusicologo è un riferimento molto interessante, Lady, perché per esempio, poi diciamo il ritmo, molte volte il ritmo diventa proprio anche musica. Perché ad esempio nella produzione per l'infanzia sovente le conte e le filastrocche sono musicate e quindi proprio c'è una produzione specifica di canzoncine musicali. Poi questo adesso mi viene in mente, mi viene in mente Endrigo che pubblicò un disco di canzoni per bambini che erano chiaramente ispirate al conte. Alcune erano vere e proprie conte, tipo Ci vuole un fiore, quella è molto famosa. E va bene, continuiamo. Per fare un albero. Sì, per fare un albero. È veramente iterativa quella, è filastrocca iterativa più che non una conta, anche se poi come conta si può usare qualunque cosa. Sì. Perché in effetti lo leggevamo proprio su questa introduzione di Seves, quindi il testo uno dei più vecchi che ci siano. 1890. I nostri ascoltatori non vedono, ma 1890. Abbiamo tutta una serie di libri d'epoca su questa scrivania. Beh, sì, molto sono nel museo, cioè quindi questi sono materiali. Questo è del 1890, quindi uno delle prime, perché insomma è subito dopo quella di Pitre, poco dopo. Ecco, ha un capitolo che si chiama Sorteggi, e nei sorteggi, dopo aver spiegato varie modalità di sorteggio, riferivamo prima a tirare le busche che tutti i piemontesi conoscono, quelle con le filastrocche prevedono alcune tipologie e dopo aver spiegato che per ogni sillaba si tocca il petto dei singoli giocatori, il capogioco eccetera, a proposito di formula già Seves, quindi più di 100 anni fa, dice che queste formule sono molto intraducibili e di altre a malapena si capisce il significato. Sono le maniere più comuni di fare la conta, ma spesso anche ciò che è scritto sull'insegna di un negozio che trovasi vicino ai giocatori può fare l'ufficio di sorteggio, sillabandolo, e così pure una parola di molte sillabe che viene lì per lì in mente. Quindi la conta è molto composita. Sì. Ci può essere casuale. L'importante è il ritmo, cioè mantenere il ritmo. Il ritmo, la sillabazione e il gesto. Bim bum bale giù! Il gioco come materia viva da plasmare a piacimento e confrontarsi. Ecco una bella verità sul gioco che abbiamo imparato durante la nostra avventura e che ci hanno confermato un po' tutti i nostri ospiti. A questo proposito, ecco altre due voci. Una la ricorderete bene perché è stato ospite della nostra trasmissione con una rubrica che abbiamo voluto fortemente e che lui è stato così gentile da inventare per noi, e cioè Luca Cerrato. L'altro è Paolo Vallerga, editore di giochi, al quale abbiamo dedicato ben due puntate. Entrambi ci hanno parlato di come si fa a parlare di giochi, soprattutto della difficoltà a raccontare le regole. Difficoltà che anche noi abbiamo incontrato durante la scrittura di questo format e che è stato forse uno degli aspetti più affascinanti della nostra ricerca, sul quale ci piacerebbe ancora soffermarci in futuro. I Fogliacci Astratti nasce molti anni fa, intorno al 2003-2004, e inizialmente era un semplice foglio su newsgroup e voleva semplicemente informare gli altri giocatori dei giochi astratti tradizionali. Poi man mano è evoluto, è passato in una forma HTML, quindi con, come dico io, con colori e immagini, perché comunque le immagini sono molto importanti per spiegare un gioco, perché è difficile. A una radio oltretutto è impossibile, e anche scrivendo è abbastanza noioso leggere un regolamento di gioco, io stesso mi annoio. Aggiungendo delle figure la cosa va più semplice, almeno io credo. Dopodiché il fogliaccio si è evoluto, ha cominciato a vedere oltre i giochi astratti tradizionali, quelli moderni, e poi è passato ai giochi da tavolo, quelli moderni, board game o giochi alla tedesca, trattandoli da diversi punti di vista. Per certi versi può essere approfondito il fogliaccio degli astratti su certi argomenti, altri argomenti devono essere un po' più leggeri, perché vorrei che anche il pubblico che capita per caso sul mio sito riesca a capire, o comunque meglio a giocare, quello che io propongo. Quindi la mia tendenza è proporre dei regolamenti, dei giochi che possono essere facilmente giocabili, semplicemente o con una scacchiera o damiera, più altre cose. cose che i lettori dovranno procurarsi. Questo in più, cerco di affrontare l'argomento giochi da un punto di vista del regolamento, analizzando i regolamenti dei giochi, sì, soprattutto quelli moderni, che hanno molti hanno delle similitudini e delle differenze. In bomba le giù. Poi un ultimo suggerimento, se abbiamo ancora tempo, sì, adesso, sì, fate giocare o leggere il regolamento che l'autore di solito scrive convinto che sia il miglior regolamento più chiaro possibile, fatelo leggere a un bambino. Sì, l'abbiamo detto con un precedente ospite che i regolamenti sono noiosi, inspiegabili e insopportabili, quindi è vero, è un buon consiglio. Fatelo leggere a un bambino che intanto vi trova tutti gli errori possibili, perché il bambino dice ma io non ho capito questa fase, e quindi non bisogna dirgli guarda, quindi chiaro, anche il fatto che dei figli è una mossa di mercato in realtà. Beh, oddio, no, perché sono partiti più o meno insieme, però no, insomma sì, mia figlia fa 12 anni quest'anno, sì, la più grande, quindi lei io sono 11 che pubblico giochi, quindi non poteva conti. Essere fatti due conti, però è importante fargli giocare i giochi, sì, e fargli anche leggere le fasi, perché io ogni tanto recupero con Spesa Proletaria, si chiama giochi durante le fiere e cambio con altri editori, sì, oppure qualcuno mi regala un gioco, sì, e così io gli regalo il mio, insomma queste cose, certo, qua non amo molto questa cosa, però, dipende da chi è l'interlocutore, forse è bene imparare a farla comunque, sì, perché ma c'è è, tanto confronto in questo, ma anche dipende dall'interlocutore, sì, se uno viene e mi dice tieni questo, mi dai uno dei tuoi, cos'è questo, fammi esatto, prima capire se mi interessa, no, però generalmente si fa. In ogni caso talvolta arrivo con questi giochi e li mollo direttamente ai miei figli per farli giocare, oppure li leggiamo insieme, sì, e talvolta le domande dei bambini sui regolamenti sono proprio terrificanti, perché dice ma questa fase vuol dire questo o questo, e io da adulto non mi ero posto il problema, sì, io magari avevo e capito, magari non hai proprio la risposta lì a portata non di ho mano. La risposta lì a portata di mano, ma capisco che la fase scritta era equivoca magari. Bim bum bale giù. Bim bum bale giù, 19esima e ultima puntata su 110 Web Radio. Il gioco è una materia che va giocata e vissuta. Le regole dei giochi, senza la possibilità di interagire con il gioco stesso al momento della spiegazione, sono di difficile fruizione. Ce l'hanno confermato Luca Cerrato, nella sua esperienza del fogliaccio degli astratti, e Paolo Vallerga, in qualità di fondatore e amministratore della casa editrice Scribabs. Ora vi lasciamo con due interventi flash. Uno è di nuovo Luca Cerrato, che ci spiega in maniera sintetica ed efficace cos'è il gioco astratto, genere sul quale ci siamo concentrati più degli altri durante le nostre puntate. E l'ultimo Ivan Mosca, il quale ci prova a dire cos'è un gioco, da un estratto della nostra penultima puntata, nella quale abbiamo tirato le somme di tutto quello che ci è capitato di incontrare e di vedere nelle precedenti. Infine, spazio ai ringraziamenti e saluti. Il gioco astratto è un gioco che non ha un'ambientazione. Adesso bisognerebbe dire ambientazione. Ci sono, ad esempio, più semplici. Il Monopoli è una, tra virgolette, una simulazione di un mercato finanziario. Giochi astratti non hanno questa ambientazione. Sì, tu potrai dirmi gli scacchi simulano una guerra, sì, ma molto, molto... Ma più che simulare forse è una metafora, ecco. Sì, giusto, bravissimo. È una metafora di una guerra. L'ambientazione non esiste nei giochi astratti. Dopodiché, la parte fondamentale di un gioco astratto è la sua semplicità. Cioè, un gioco astratto lo impari, io dico sempre, in 5 minuti. Vedi gli scacchi, la dama, non ci vuole tre, eccetto il Bao. Sì, che ci vuole un po' di più. Adesso, infatti ti guardavo perché... Eccetto il Bao, ma diciamo il 90% dei giochi astratti si impara in 5 minuti. Sì. Tipo l'esempio più classico che porto è il Go. Il Go è un gioco orientale, si impara in 5 minuti, ma come si dice ci vuole una vita per diventare maestro. A questo proposito, anche un po' per chiudere questo cappello sui giochi astratti, potremmo dire che il gioco astratto si definisce tale perché forse più che basarsi su degli elementi materiali di gioco si basano su degli elementi mentali come la logica, il calcolo, sì, di volta in volta... Diciamo così, non so, con Bessella si diceva che il Bao è aritmetico, sì, più che matematico, quindi va forse a pizzicare delle corde diverse, ma che abbiamo tutti dentro, insomma, sì, giochi di ingegno. I giochi di ingegno, io ho una definizione che il gioco astratto è un gioco, quello che faccio, che presento io sul fogliaccio degli astratti, è un gioco deterministico, nel senso che la componente fortuna c'è e se non c'è, scusa, la componente non c'è, oppure se c'è è controllata dal giocatore, tipo il gioco del backgammon. A prima vista sembra un gioco di fortuna, sì, ma non lo è. Usando tipo il dado del raddoppio, facendo più partite, sì, diventa un gioco di abilità. Sì. Gli esperti mi spiegavano che se io faccio una partita secca col campione del mondo posso vincerla, la partita sì. secca, ma se faccio una partita a punti, sì. so ai 6, ai 9 punti, la perdo come perdessi una partita a scacchi col campione del mondo. Ed è per questo, se ho capito bene, che il backgammon si gioca a round e non sì. a partita secca. No, partita secca la fortuna può essere decisiva. Bim bum bale giù! Il gioco è uno degli oggetti sociali. Gli oggetti sociali sono quegli oggetti che esistono solo perché le persone ci credono, come il valore del denaro, il vincolo del matrimonio, le leggi dello Stato, le elezioni, le cariche pubbliche. Sì. Esistono, le persone ritengono che siano questioni oggettive che non dipendono da loro, dalla loro volontà, però in realtà dipendono esattamente dalla loro volontà. Esatto. E come si colloca il gioco in questi altri eventi che tu hai citato come oggetti sociali? Beh, per esempio, le regole dei giochi esistono soltanto perché le persone ritengono che esse esistano. Per cui la regola che prescrive il movimento di un alfiere su una scacchiera è una regola che le persone intendono in quanto oggettiva, la stessa esistenza dell'alfiere in quanto elemento ludico di una sintassi di un gioco esiste in quanto le persone ritengono che esso esista. Di per sé un alfiere sì. è un pezzo di legno sagomato. Quindi è un po' un modo per negare l'arbitrarietà di un intervento umano nel gioco, quasi come se il gioco fosse dato dall'alto un po' a caso, non so. Beh, certamente gli oggetti sociali e i giochi che hanno degli elementi che sono oggetti sociali al loro interno, quali ad esempio le regole, possiamo dire che sono fenomeni sociali all'interno dei quali gli attori sociali negano il proprio apporto nella costruzione sì. del fenomeno stesso. Bim bum bale giù! Avrete sicuramente riconosciuto la nostra musica di chiusura. Ebbene, siamo arrivati agli sgoccioli di questa stagione di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. In attesa di scoprire se esisterà e di capire se avrà senso che esista anche una seconda stagione, ringraziamo i nostri ospiti, la professoressa Paola De Sanctis Ricciardone, che ci ha parlato di Taylor e del Patolli, la dottoressa Irene Salerno per il contributo sul Pacisi, Andrea Ligabue, Luca Cerrato, Valentina Basso, Nino Vessella, il professor Pompeo Vagliani e la dottoressa Luciana Pasino, Paolo Vallerga, Gianmarco Napoli della FCB Torino, Andrea Romano per il Go, Spartaco Albertarelli della Editrice Giochi, Maria Carla Rizzolo e il Centro per la Cultura Ludica, Stefano Selvi per il Backgammon, Ivan Mosca e tutte le persone che abbiamo incontrato il 26 maggio in Piazza San Carlo per la Giornata Mondiale del Gioco, tra cui un saluto speciale va a Maria Cristina Stasi, a Paoletta e a tutta la compagnia di Frequenza Ludica, con un ennesimo ringraziamento e un in bocca al lupo per tutto. Un altro ringraziamento va sicuramente alla redazione di 110 Web Radio, Fabio Bruno, Elena Liascione, Elena Canavosio per la partecipazione, la disponibilità e i consigli, e le altre voci, Fabiola Palmas, Pablo Cappellato e Laura Grassi. Un contributo fondamentale è stato quello di Carlo Bagini alla regia, coadiuvato da Sara e Davide. Chiudiamo con i canonici contatti, 110@unito.it e 110webradio@gmail.com, gli indirizzi mail, www.110.unito.it, il sito di 110 Web Radio, per riascoltare tutte le nostre puntate alla pagina podcast. Ci scusiamo se ci siamo dilungati, ma ci è sembrato giusto prenderci il nostro tempo per ripassare e salutare tutti i nostri compagni di viaggio. Io sono Francesco, l'appuntamento con Bim Bum Balle Giù, così gioca il mondo, è per la prossima partita, a qualsiasi gioco in qualsiasi momento. Buonasera. Avete ascoltato? Bim Bum Balle Giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim bum bale giù, così gioca il mondo.